Buongiorno signor Rapidissimo, io penso che questo concorso rappresenti l'ennesimo fallimento totale della mentalità dei giovani e dei meno giovani italiani che in realtà non ambiscono a lavorare, ma ambiscono ad avere un posto pubblico nel quale avere immediatamente la malattia e i permessi, non fare assolutamente nulla, perché non dimentichiamoci che l'Italia, nonostante la crisi, è un paese di grande immigrazione extracomunitaria e gli immigrati lavorano. La maggior parte lavorano, fanno i cosiddetti lavori che gli italiani non vogliono più fare, che tutti questi disoccupati non si sognerebbero mai assolutamente di fare, perché in campagna non ci vanno, perché faticano, gli allevamenti di bestiame non ci vanno perché faticano, e nonostante sarebbero retribuiti anche bene, nei macelli non ci vanno perché faticano, in fonderia non ci vanno perché faticano, vogliono fare invece i dipendenti pubblici, che significa non fare assolutamente niente, perché il dipendente pubblico Grazie non... Daniele, io ti interrompo e ti do, per dire, un premio virtuale perché ti sei esposto a una salva di fischi e di insulti da parte dei nostri ascoltatori che pensano che ci sia dell'insano nordismo e del pregiudizio nelle tue parole. Però è bene sapere che in Italia questo punto di vista è molto esteso e diffuso.